Sura dell'Aurora, capitolo 113 del sublime Corano, rivelata alla Mecca, consta di 5 ayat ed è scesa dopo la Sura 105 al Fil. Nel nome di Allah il sommamente misericordioso e il clementissimo, di chiedo protezione al Signore dell'Aurora dal male che proviene da ciò che creò, dal male che si nasconde nel buio della notte quando è fonda, dal male del soffiante sui nodi e dal male dell'invidioso quando è in preda all'invidia.